su iltascabile.com trovate un articolo intitolato Tossici Digitali, che è un estratto da The Game Unplugged, un libro appunto di autori vari a cura di Valentina Rivetti e Sebastiano Janizzotto. Questo articolo è scritto da Francesca Coin, che è docente di sociologia all'Università di Lancaster, che è al telefono con noi e che saluto. Ciao, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, tu in questo articolo, come già si evince dal titolo ovviamente, indaghi un po' anche gli effetti della tecnologia sulla vita di tutti noi, che non sono solo effetti collaterali, ma sono anche, come dire, effetti ben voluti, ecco, diciamo così, da chi ha progettato appunto gli strumenti tecnologici. Il tuo articolo comincia descrivendo un problema di, diciamo, di salute mentale tra gli operatori, gli imprenditori della Silicon Valley. Fenomeno nuovo questo? Sì, dunque io volevo provare a cercare, insomma, a guardare proprio il lato oscuro della rete o il lato oscuro anche delle nuove tecnologie, alla luce del fatto che poi si articolano in vario modo, insomma, pervadono i luoghi di lavoro, pervadono il tempo libero, pervadono il consumo online, eccetera. E uno dei punti di partenza, anche in accordo appunto con i due curatori del testo, era di guardare anche un pochino alle patologie che stanno emergendo, e quindi insomma il punto di partenza è stato proprio Silicon Valley, perché Silicon Valley peraltro è un luogo di grandissime disuguaglianze, in cui la vita costa sempre di più, appunto, in cui fino a qualche tempo fa c'era uno degli slum più grandi degli Stati Uniti, era proprio a Silicon Valley, e quindi con questi ritmi di lavoro, con questo costo della vita, con questa precarietà lavorativa, era evidente che ci dovesse essere anche, come dire, una sorta di malessere diffuso. E per darti dei dati o per darti magari alcune indicazioni anche su quello che io ho ricostruito un po', diciamo, il dibattito dei quotidiani e che sta avvenendo insomma negli ultimi anni, però uno dei dati che a me aveva colpito di più è che per esempio il tasso di suicidio era particolarmente elevato anche, diciamo, tra gli studenti delle scuole superiori, il che, se ci pensiamo, ha molto senso, perché l'immaginario della Silicon Valley è di giovanissimi imprenditori che a cavallo con gli anni dell'università o addirittura quelli che decidono di non intraprendere un percorso di studi hanno successo economico subito, e quindi dicevano proprio la pressione sociale ad avere successo subito, perché se nella terra delle opportunità, diventa di fatto un fattore di malattia e di patologia più che un fattore di successo, in un contesto peraltro in cui appunto il tasso di insuccesso e di fallimento è del 75% delle start-up, quindi un mercato ipercompetitivo, ovviamente in un mercato fortemente saturo come quello contemporaneo. Questi giovani o anche meno giovani mettono in atto anche, come dire, il biohacking per riuscire a produrre sempre di più. Sì, questo era uno dei fattori, diciamo, il pezzo parte dai CEO, che poi insomma ci interessano relativamente, perché poi mi interessava andare soprattutto all'impatto delle nuove tecnologie, o magari se vogliamo anche alle patologie tra lavoratori precari che quindi vivono in contesti che ci sono più vicini. Però è evidente che tra i vari insomma studi che stanno pubblicando su questi, ci sono proprio studi che guardano anche nel mondo delle startup e anche nel mondo dei CEO, in un contesto in cui il finanziamento è così volatile, in un contesto in cui la cattura dei capitali è così insomma premiante ma anche punente, allora esattamente c'è il tentativo di mettere a valore appunto questi finanziamenti, e pertanto di tenere la soglia dell'attenzione più alta possibile, di rimanere svegli più a lungo possibile, di dormire il meno possibile, con dei periodi di appunto iperlavoro e dei periodi di collasso. Infatti appunto i dati che adesso insomma non ho davanti agli occhi, però parlano di patologie che aumentano del doppio, del triplo, anche di 10 volte quando arriviamo a imprenditori della Silicon Valley, sino alla sindrome maniaco-depressiva, che insomma moltiplica appunto di varie volte rispetto a professioni normali. Ma il problema del digitale non riguarda solamente ovviamente questi imprenditori, riguarda anche tutti noi. A me ha colpito molto il fatto che tu, tra l'altro, sei una studiosa anche di moneta, che la nuova moneta sia il mercato, diciamo, dell'attenzione. Sì, ma infatti questo è un po' uno degli anelli di passaggio per venire al modo in cui noi interagiamo poi con queste grandi piattaforme, nel senso che il modo in cui io lo immagino è esattamente di una sorta di predatore che cerca in ogni istante di catturare la nostra attenzione. E in quel senso, se pensiamo anche semplicemente a un motore di ricerca, oramai per esempio Google ci conosce meglio di nostra madre, nel senso che tutti i nostri desideri, tutto ciò che cerchiamo semplicemente anche con un Google Search, touch, ma poi potremmo estenderlo, come dire, alla tracciabilità delle nostre transazioni, delle nostre vite. Tutti i nostri desideri sono tracciabili e questo ci ritorna ovviamente anche nei social sotto forma di proposta d'acquisto, sotto forma di mercificazione dei desideri, sotto forma appunto di un mercato che avviene tentando di catturare la nostra attenzione, continuamente trattandoci in questo senso da utenti. Questo tuttavia ha tutta una serie di conseguenze, o meglio, i dati che guardano al modo in cui questo cambia le nostre relazioni sociali, per esempio, al modo in cui questo cambia le nostre abitudini, sono abbastanza impressionanti, perché effettivamente si vede come il cervello umano e la cattura continua del cervello umano ci renda preda di una continua distrazione che però è quasi un sequestro dell'attenzione, quasi un rapimento. In questo senso ci sono alcuni studiosi, per esempio, che dicono che ogni qualvolta riceviamo una notifica, per esempio, il nostro cervello ci mette 23 minuti per riprendere il filo dei suoi discorsi, dei suoi ragionamenti e tornare a fare quello che stavamo facendo prima. Però questo, se lo pensiamo, se ci pensiamo, interviene circa l'80% delle persone guarda il telefonino mentre parla con i familiari. Il nostro cervello funziona sempre più come uno smartphone, per cui è continuamente distratto, sta pensando continuamente a qualcos'altro. E l'altro elemento fondamentale è che questo qualcos'altro molto spesso è lavoro, perché questo qualcos'altro, comunque l'assottigliamento, l'indifferenziazione ormai tra la sfera lavorativa e la sfera del tempo libero, le mail istantanee, eccetera, eccetera, di fatto riempiono la nostra vita, trasformandola anche appunto quasi in un diversivo, ma di fatto la riempiono di lavoro, perché è questa, diciamo, la concatenazione diabolica di ciò che fanno appunto molto spesso dell'essere sempre connessi e che di fatto trasforma completamente le nostre esistenze, portandole spesso al punto del collasso o al punto dello sfinimento, se vogliamo. Sì, infatti ancora su questo stavo ragionando, del fatto che il commercio ha sempre tentato di attirare l'attenzione, di fidelizzare anche gli acquisti, no? di tutti noi, però l'elemento nuovo è questa pervasività costante che modifica anche il nostro comportamento, riducendo la nostra autonomia. Tu lo scrivi chiaro e tondo, insomma, nell'articolo. Sì, l'altro passaggio che secondo me era necessario in questa cosa era il passaggio con, io appunto mentre scrivevo questa cosa stavo leggendo l'ultimo libro di David Graeber che si intitola Bullshit Jobs, e pertanto lavori di merda è la traduzione italiana del titolo, non so di fatto se sia stato tradotto ancora o meno, penso di no, e tuttavia la sua tesi era che i lavori che facciamo sono sempre più ripetitivi, sempre più standardizzati, sempre più tracciati, e quindi insomma anche in questo senso le nuove tecnologie nel luogo di lavoro, ma sono anche sempre più fatti da remoto. E se noi mettiamo insieme appunto, qui sarebbe magari interessante parlare di un ambito specifico, ma se pensiamo per esempio nel centro nord Italia, o comunque se pensiamo a una fetta grossa anche del lavoro italiano come lavoro nella costruzione di siti web, nella comunicazione eccetera, molto spesso questi sono lavori da remoto, e molto spesso questi lavori da remoto hanno appunto due implicazioni principali, ci dicono appunto studi contemporanei, che da un lato ci si sente in dovere di lavorare di più quasi per ripagare di questa concessione di non dover andare nel luogo di lavoro, pertanto c'è una reperibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, persino in vacanza. Dall'altro, l'altro dato di questa cosa qui è la crescente solitudine, perché in molti casi appunto cresce la solitudine, o comunque si lavora in isolamento, al punto che c'è una testimonianza che cito di una donna appunto che lavorava sempre, continuamente, e che alla fine appunto faceva uso di sostanze, faceva uso di cocaina, e quando è stata arrestata ha detto: io non sapevo neanche più chi chiamare, perché negli ultimi anni non avevo fatto altro che lavorare, non avevo nessuno a cui telefonare. E quindi appunto, se mettiamo insieme i cambiamenti nei luoghi di lavoro, la smaterializzazione dei luoghi di lavoro, la reperibilità 24 ore su 24, la presenza costante di appunto piattaforme digitali per la qualunque, insomma, per qualunque tipo di servizio oggi, vediamo che da un lato l'attenzione al consumatore e quindi il tentativo di incentivare l'acquisto, di incentivare appunto il divenire utenti e il divenire utenti dipendenti da determinate piattaforme, penso non soltanto Google o Facebook, ma penso anche appunto a, non lo so, anche Tinder, o comunque sto pensando a questo libro che si intitola Hooked, che proprio significa catturare l'attenzione degli utenti sino a renderli fedeli alla piattaforma, esattamente come appunto si creano proprio delle nuove, creando delle vere e proprie dipendenze. Dall'altro tuttavia, nella sfera produttiva, queste grandi tecnologie tendono a risucchiare sempre più appunto la reperibilità, l'estensione del processo lavorativo lungo tutto l'arco appunto del giorno, della notte, del tempo libero, e a intensificarlo sempre di più. Quindi se noi mettiamo insieme appunto l'uso che viene fatto delle varie delle piattaforme, insomma le sto mettendo tutte insieme, che non sarebbe proprio, però è per guardare come sta cambiando sia il lavoro che la sfera così tra virgolette libera, non è sorprendente appunto che ci troviamo di fronte a livelli di malessere particolarmente elevati. Uno dei dati che mi ha colpito mentre stavo insomma ragionando su questi temi è che uno dei sondaggi più ampi tra la popolazione lavoratrice di 160 paesi al mondo, per l'80% dei casi delle volte odia il suo lavoro, cioè l'80% delle persone, che lavorano in un campione preso, insomma su 160 paesi, non sta un po' male al lavoro, non lo vorrebbe migliorare, lo odia. E quindi insomma, stiamo parlando di un livello di sfruttamento lavorativo, di isolamento, che spesso è compensato anche dalla presenza online, è compensato anche dal tentativo di avere un'identità online, avere delle amicizie online, ma che di fatto parla appunto di una vita sempre più connessa, sempre più produttiva e anche sempre più isolata e appunto sola nel momento in cui nel momento in cui ci sono delle risposte anche politiche da cercare. Il quadro insomma che ne esce non è affatto roseo, però insomma la consapevolezza è il primo passo, quindi io Francesca ti ringrazio e ti auguro buon lavoro. Grazie mille a te, aspettiamo i prossimi passi dopo il primo allora. Esatto. Grazie mille. Grazie, buona giornata.